Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ultime puntate per questo mese di luglio. Naturalmente, che cosa facciamo stamattina? Parliamo anche un po' di vacanze, vacanze in vista, vacanze in corso, vacanze future per molte famiglie che le hanno magari rimandate scegliendo la bassa stagione. C'è chi parte da solo, chi in gruppi numerosi, chi parte con famiglie al seguito, magari con bambini piccoli, chi sceglie località esotiche, chi va dall'altro capo del mondo, chi predilige il fresco della montagna, chi la spiaggia di sempre, lo stabilimento balneare appunto di sempre, ma anche cercando il posto più tranquillo del mondo si può incappare in qualche disavventura, problematiche di salute e quindi il bisogno di ricorrere a cure mediche. Piuttosto può verificarsi che il bagaglio sparisca, no, ancora peggio che il viaggio salti per qualunque motivo d'emergenza, e allora magari un paracadute, una protezione che ci copra da queste eventualità potrebbe essere utile. Tra l'altro, disgraziatamente, negli ultimi anni abbiamo verificato come i viaggi possono essere annullati anche a causa del fallimento del tour operator, ma se il viaggio è organizzato da un soggetto di questo tipo, allora le garanzie saranno di un certo tipo. Se ci si organizza da soli, magari è bene tutelarsi in via individuale, e lo si deve fare ovviamente in maniera diversa. Allora, come funzionano le coperture assicurative per chi decide di sottoscriverle prima di partire per qualunque viaggio o qualunque vacanza? Come si sceglie la polizza migliore? Vale solo il prezzo, la tariffa come guida per il miglior prodotto sul mercato? Come fare un esame attento delle coperture e anche delle scoperture, cioè di quelle eccezioni, di quelle voci non coperte dalle polizze? Oggi ci sono molte opportunità sul mercato anche di fare polizze assolutamente personalizzate, ma tra l'altro ci sono anche delle novità che sono state introdotte dal riformato codice del consumo, riformato da poco. E quindi anche di questo parleremo questa mattina con i nostri ospiti, naturalmente come sempre raccogliendo, se vorrete, le vostre testimonianze, le vostre domande all'800 24 00 24, o al numero di sms 349 238 6666, io però anche la mail aperta davanti a me all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. I nostri ospiti di questa mattina: Dario Dalla Torre, responsabile retail e gestione portafoglio danni non auto di Assicurazioni Generali. Dottor Dalla Torre, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto qui in studio con me a Milano, Cristian Perego, responsabile marketing di Ervitalia. Io adesso non so se dirla alla tedesca o in quale altra maniera, dottor Perego, va bene Ervitalia, che tra l'altro è probabilmente l'unica compagnia internazionale specializzata esclusivamente nelle assicurazioni viaggi. Esatto. Quindi insomma un osservatorio anche piuttosto interessante, ma naturalmente interessante, dobbiamo anche farci dare delle raccomandazioni all'utilizzo adeguato di questi prodotti. E naturalmente non potevamo che chiamare anche un'associazione dei consumatori. Benvenuta Renza Barani, presidente. Non ce l'abbiamo ancora in questo momento, sì, comunque la presento. È Renza Barani, presidente di Federconsumatori Modena, in rappresentanza dello sportello SOS Turista, che appunto si collegherà con noi tra qualche istante. Allora, prima di partire con il tema di oggi, ovviamente è la borsa che continua a non farci dormire, a farci stare poco tranquilli. Ancora una volta oggi sono i titoli bancari di Milano ad essere i più movimentati di tutta Europa. Per la verità, nel vortice stamattina sono finiti anche i titoli del settore auto, dopo che il gruppo francese Peugeot ha dato le sue linee guida per la fine dell'anno, che sono state bocciate appunto dagli investitori, sono state reputate linee guida poco soddisfacenti, e il titolo in questo momento a Parigi sta perdendo il 7,85%, ma anche a Parigi, così come nelle altre piazze europee, sono le banche a soffrire, e soffrono soprattutto a Milano e trascinano a ribasso l'intero listino. Il FTSE MIB sta di nuovo riperdendo quasi 2 punti in questo momento. Il peggior titolo è il Banco Popolare, anzi gli fa compagnia Unicredit, perdono 4 punti. Mediobanca -3,57, Azimut -3,33. Fondiaria -2,88, Generali -2,53, scuote la testa il nostro ospite di Ervitalia questa mattina. Sì, effettivamente questi chiari di luna noi ci siamo abituati a raccontarli tutti i giorni, voi forse un po' meno a sentirli, ma in pregiro è invece il miglior titolo, guadagna il 3,92%, Fiat Industrial +2,17, Luxottica in rialzo anche oggi di 1 punto, questo gruppo 2 giorni fa ha presentato la sua miglior trimestrale della storia, quindi qualche gruppo che tutto sommato va bene nonostante i venti di crisi c'è. Tots +0,5, 0,37. Euro su dollaro 1,44,84. Titoli di Stato. Stamattina abbiamo avuto un'asta di BTP indicizzati all'inflazione. Sono stati assegnati 942 milioni di euro di titoli decennali. Il rendimento è salito ad oltre il 4%. E l'oro ha ritoccato un nuovo record storico a 1625,54 dollari l'oncia. Lasciamo un po' questa borsa anche oggi che ci sta movimentando la giornata, i giornali radio e i nostri collegamenti. Andiamo adesso alle nostre vacanze e sentiamo un po' quali sono le indicazioni utili per partire protetti e naturalmente dal punto di vista assicurativo. Sentite. La vacanza è rilassante solo quando tutto fila liscio. Chi ha avuto la spiacevole esperienza di fare i conti con un contrattempo durante le ferie sa bene quanto siano stressanti gli imprevisti quando il tempo dovrebbe essere dedicato al riposo. Anche per questo, probabilmente, si stanno moltiplicando e diffondendo sempre di più le polizze pensate per proteggere da danni e disguidi i turisti. Le polizze di assicurazione spesso vengono tralasciate perché non si riesce a capire la loro portata e ci sembra di aggiungere una spesa inutile al nostro pacchetto vacanza. In realtà, per pochissimi euro, possiamo dire addio a qualsiasi imprevisto o preoccupazione. Stipulare una polizza di assicurazione viaggi, soprattutto se ci si reca all'estero, serve ad esempio a coprirsi e tutelarsi in caso di improvvisa malattia o un infortunio in un paese straniero. Ma allo stesso tempo serve anche per tutelarsi in caso di tutti quei disguidi che possono verificarsi con i mezzi di trasporto e lo smarrimento dei bagagli. Sono quindi molte le garanzie che può ottenere chi ha stipulato un'assicurazione viaggio, spesso offerta contestualmente all'acquisto del pacchetto vacanze. Il costo di queste polizze può aumentare o diminuire a seconda di alcune variabili, per esempio in base alla destinazione del viaggio, in quanto le compagnie di assicurazione considerano alcune destinazioni più pericolose di altre e calcolano il premio da pagare di conseguenza. Le coperture assicurative coprono diversi gradi di rischio e sono sempre ampiamente personalizzabili, in modo tale da scegliere solo quelle clausole che effettivamente ci interessano. 800240024 è il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande. Leggevo con curiosità un sms di un ascoltatore che ci scrive: mi hanno detto che in Francia esistono anche assicurazioni per i guasti e i furti in casa quando si va in ferie, assicurarsi la vacanza ma anche la residenza dalla quale si parte. Mi date qualche consiglio? Grazie, da Cremona. E ci fa anche dei complimenti che noi stamattina, visto che abbiamo bisogno di conforto, cogliamo volentieri, come sempre bravi. Allora sì, credo che ce ne siano anche in Italia. Adesso appunto Cristian Perego di Ervitalia mi stava dicendo sì, noi ne abbiamo, poi magari ne parleremo. Partiamo però con i prodotti invece per la vacanza. Perego, è la prima volta che lei viene a Salvadanaio, inizio direttamente con lei. Mi stavo chiedendo, per la verità glielo stavo chiedendo anche prima a microfoni spenti, se esiste un osservatorio su qual è il grado di sensibilità delle famiglie italiane nei confronti di questi prodotti. Si assicurano volentieri? Sono tutti come me che quando partono mi porto neanche l'aspirina dietro, anche se vado a fare dei viaggi molto lunghi. Intanto, per rispondere alla prima domanda, non esiste un vero e proprio osservatorio sulle assicurazioni viaggio e sulla tendenza o comunque la sensibilità degli utenti verso le assicurazioni viaggio. Sicuramente quello che possiamo notare è una crescita nella stipulazione di polizze viaggio, e questo è dovuto alla crescita della sensibilità alle problematiche che possono essere legate a un viaggio. Il viaggio solitamente è un sogno che si realizza, ma spesso diventa un incubo. E sentendo probabilmente, o leggendo sui blog, sentendo amici piuttosto che familiari, probabilmente gli utenti italiani, i cittadini italiani, iniziano a percepire come un valore la polizza viaggi e non più solo un costo come spesso viene percepita. Da qui poi bisogna entrare un attimino nel merito sia del tipo di vacanza che si va a fare piuttosto che il luogo che si va a raggiungere. Sicuramente se la vacanza è in Italia, la polizza viaggi ha meno valore aggiunto rispetto ad andare a fare un viaggio che ne so, nella foresta amazzonica, ovviamente, perché c'è un servizio sanitario che comunque, al di là di tutti i problemi che può avere, infatti, ci tutela. Tanto per cominciare, siamo in grado di spiegare anche il nostro malessere, la nostra patologia con il medico, visto che si parla la stessa lingua, quindi prima esatto, cosa. Ecco. Esatto, perché non sempre è solo un problema. È vero che spesso la polizza viene fatta per ovviare ai costi sanitari dei paesi che si vanno a raggiungere, pensiamo agli Stati Uniti. Ovviamente i costi sanitari sono esorbitanti, basta veramente un braccio rotto per spendere $10,000, figurarsi se si hanno problemi più gravi. Ho potuto vedere di persona sinistri, quindi eventi sfortunati accaduti ai nostri clienti fino a $900,000. Però. Particolarmente sfortunati, per carità, e non voglio fare terrorismo, però può capitare. Quindi sicuramente una leva, una motivazione per fare una polizza viaggi è proprio quella di non dover sostenere in prima persona i costi sanitari del paese che si va a visitare. Ma non solo, l'assicurazione viaggi permette anche di dare, di offrire assistenza all'utente. Banalmente io posso anche parlare inglese, ma se il medico cinese ad esempio non parla inglese, avrò grosse difficoltà a fare capire il mio malessere, il mio disagio e a capire quale può essere la diagnosi, piuttosto che... Quindi una seconda spiegazione può essere, una seconda motivazione per fare una polizza o per giustificare l'acquisto di una polizza può essere anche questa, l'assistenza. Poter avere un numero da chiamare per qualsiasi malessere, per qualsiasi informazione, dalla ricerca di una farmacia, dalla traduzione di un farmaco, piuttosto che ho un banale raffreddore, sono bloccato in camera e non so come raggiungere un ospedale. Per cui questo è un secondo motivo. Altri motivi possono essere legati alla prepartenza, mi riferisco alle polizze annullamento. Spesso e volentieri, l'abbiamo citato prima, ci possono essere delle cause che non ci permettono di partire perché abbiamo un familiare che sta poco bene, il bambino, classica situazione, bambino che si è ammalato. La polizza annullamento è molto importante ed è, oserei dire, la prima polizza che viene effettuata dalle famiglie. Soprattutto perché, chiaramente, anche visto che negli ultimi tempi si è andata l'ossessiva caccia del risparmio, magari si prenota il viaggio e la vacanza con largo anticipo per beneficiare di tariffe ovviamente convenienti e questo chiaramente porta a far aumentare i rischi di un possibile annullamento, perché prenotando, volendo partire ad agosto, magari immaginiamo ovviamente di avere le ferie e prenotando a gennaio, febbraio, e chi l'ha detto che possiamo fare quella vacanza, ma non è detto che debba succedere per forza un caso sfortunato, una malattia, può essere qualsiasi cosa, magari il datore di lavoro non ci dà le ferie all'ultimo momento, banalmente, quindi forse ecco il caso anche di proteggersi da questo punto di vista. Poi esploreremo anche gli altri campi di intervento del settore assicurativo. Volevo sentire Dario Dalla Torre di Assicurazioni Generali per capire quali altri suggerimenti preventivi si può dare appunto alle famiglie che ci stanno ascoltando, si possono dare alle famiglie che ci stanno ascoltando, che stanno magari valutando adesso. Tra l'altro, così, per dare già un'indicazione concreta, Dalla Torre, secondo lei quanto tempo prima di partire è bene pensare al pacchetto assicurativo? Beh, il pacchetto assicurativo... Magari meglio non farlo proprio il giorno prima, insomma, quando i bagagli sono già belli che chiusi. No, conviene pensarci un po' prima, anche in particolare per le spese di annullamento del viaggio. Conviene muoverci con un certo anticipo in modo da avere anche un lasso di tempo più ampio. Comunque secondo me nel momento in cui uno valuta la destinazione, valuta gli alberghi, valuta il viaggio, valuta un po' tutto, è giusto che valuti anche l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa. Come diceva il collega, poi questo consente di essere sicuramente più tranquilli al momento della partenza, perché sappiamo che nel momento in cui saremo in viaggio avremo la possibilità di avere un partner, qualcuno che pensa a noi e che in caso di necessità, in caso di bisogno ci può aiutare sia con servizi di rimborso come può essere appunto l'indennità per l'annullamento del viaggio, ma soprattutto con servizi diretti, quindi la fornitura in diretta di prestazioni. Dalla Torre, ho visto che nella vostra ultima offerta esiste la possibilità di sottoscrivere pacchetti assicurativi standard, ma anche di personalizzare l'offerta. Che tipo di scelte stanno facendo i consumatori italiani? Io credo che ci sia anche una differenza di prezzo rispetto al prodotto standard piuttosto che a quello personalizzato, però ecco, pur di andar via tranquilli e sicuri e con la garanzia di essere protetti, si fa anche la scelta del personalizzare la polizza. Magari che differenza di prezzo può esserci tra l'una piuttosto che l'altra? Adesso chiaramente bisogna valutare le situazioni a livello individuale, però magari esiste un range di differenza di prezzo? diciamo che il pacchetto di base di norma comprende sia l'assicurazione assistenza, quindi tutti i servizi in viaggio, sia l'assicurazione del bagaglio e quindi furto, smarrimento e quant'altro, sia l'assicurazione del rimborso delle spese mediche. Come si diceva in precedenza, è importante questo tipo di copertura, in particolare per chi fa viaggi più a lungo raggio, quindi chi va all'estero, avere una copertura di assistenza anche medica è sicuramente molto importante. La personalizzazione avviene tramite garanzie ulteriori, che sono la garanzia infortuni, quindi il fatto di avere la possibilità di essere ben coperti anche nel caso in cui durante il viaggio capiti un incidente, capiti un infortunio. Ovviamente in questo tipo di situazioni siamo più esposti perché facciamo attività all'aria aperta, attività di tempo libero, magari la persona è in ufficio durante tutto l'anno e quindi rischia poco, ma nel momento in cui una persona è in viaggio fa anche attività un po' più pericolose, per cui è importante avere, se non sia già, una copertura o aumentare il proprio grado di copertura durante il viaggio. Allora, sì, l'ho interrotta perché adesso dobbiamo già fermarci per la nostra prima pausa, però forse posso concedere 30 secondi al nostro primo ascoltatore che ci ha chiamato per poi salutare anche la presidenta appunto di Federconsumatori Modena, Renza Barani, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi riservo di farla intervenire a questo punto nella seconda parte della trasmissione per raccontare appunto le novità del codice del consumo su questa materia, ma sentirei anche l'esperienza di Stefano Latina, cui naturalmente la suocera non ha fatto mancare l'occasione di rovinare la vacanza. Stefano, sto scherzando ovviamente, ho introdotto solo in maniera scherzosa la sua esperienza. Buongiorno. Buongiorno, senta, io ho fatto un viaggio con un tour operator abbastanza importante, ho stipulato la classica assicurazione, il giorno prima della partenza mia suocera si è ammalata, ho naturalmente portato il certificato medico, ho fatto tutte le cose che dicevano la polizza e in pratica non mi hanno rimborsato nulla perché hanno detto che mia suocera era precedentemente ammalata. Ah, ecco, sì, beh, sì. È stata ricorrata al pronto soccorso, ed è la prima volta che è stata ricorrata al pronto soccorso per questa cosa. Mia moglie è un medico, ho scritto, insomma, praticamente siamo al decreto ingiuntivo, mi hanno offerto il 50%. Quindi insomma è andata a trattativa, segno che anche loro un passo in avanti l'hanno fatto, perché se fossero stati forse completamente convinti delle loro ragioni magari non avrebbero neanche accettato di andare a negoziare. Eccoci ritrovati in diretta, stavamo cercando di ridocumentarci, visto che ci ha lasciato Stefano da Latina, appunto l'ascoltatore che abbiamo sentito prima, sul tipo di problematica di salute che aveva avuto questa sua suocera, che si è sentita male il giorno prima di partire, e credo appunto fossero problematiche di cuore, pertanto forse la compagnia assicurativa, essendo una malattia persistente, ha avuto ragione, perché queste sono le regole di base di una qualsiasi polizza a non voler rimborsare. Detto questo, però, sono arrivate ad una negoziazione che ha portato la compagnia a proporre il risarcimento del 50%, probabilmente del valore pagato per lo spostamento di questa persona. Detto questo, sento subito l'Associazione dei Consumatori, Renza Barani, sportello SOS Turista, così magari lo indichiamo per tutti coloro che vogliono così fare un po' un check-up di tutto quello che è bene sapere prima di partire, della vostra assistenza, anche di quella che potete garantire in questo periodo. Ci dà il suo commento sul caso che ha appena sentito? Sì, guardi, il nostro, diciamo che abbiamo azzeccato proprio alla prima domanda una delle questioni più frequenti che capitano proprio al nostro sportello che noi abbiamo appunto qui a Modena, perché appunto la cosa che succede nel momento in cui compare, diciamo, la patologia e si deve attivare di fatto la polizza prevista, è proprio la contestazione con la quale ci troviamo a fare i conti, quella appunto della compagnia che ci dice non è una patologia nuova, quindi sostanzialmente se ne era a conoscenza, perciò il rimborso non può avvenire, ecco. E quindi dal nostro punto di vista diciamo che le questioni andrebbero analizzate per bene, ecco, per davvero discernere, dividere quelle che sono effettivamente le patologie già preesistenti e quelle invece no. Allora, molte così volte invece noi dobbiamo fare i conti con una presa di posizione della compagnia molto rigida, difficile da smontare. Un po' rigida. No, esatto. Tra l'altro stavo pensando adesso, facendo i casi estremi, ammettendo che questa signora fosse cardiopatica, è chiaro che la compagnia di assicurazione ha ragione a contestare la malattia preesistente, Christian Perego di Ervitalia, e quindi non vuole risarcire. Ammettendo che però davvero l'ascoltatrice sia in totale buona fede, che fino a quel momento non abbia avuto nessun problema di cuore, che l'infarto, se questo è quello che è capitato, le sia venuto il giorno prima appunto della partenza, per la prima volta manifestato questa problematica cardiopatica. Per definizione la malattia cardiopatica è preesistente. No, no, Assolutamente ecco. No. Adesso, facendo tutti gli scongiuri, potrebbe capitare a me che non ho più di questo tipo di problemi. Assolutamente sarebbe da rimborsare in questo caso. Certo, però ecco, lì si tratta di un bel lavoro di dimostrazione di questa situazione cui si deve incaricare, immagino, il contraente. Il contraente, assolutamente, verranno poi sentiti i medici curanti, eventualmente i medici della compagnia assicurativa. Qui abbiamo introdotto un tema che fa riferimento alla chiarezza delle polizze viaggi. Le malattie preesistenti sono un terreno di gran dibattito, diciamo. Esattamente, perché per forza di cose, ma proprio a livello di tecnica assicurativa, inserire le malattie preesistenti porta ovviamente ad un innalzamento del prezzo, del premio da pagare. Per quanto riguarda noi, la scelta che abbiamo fatto è di inserirle in alcuni prodotti, in alcune polizze viaggi, e di non inserirle in altre. La cosa che facciamo però è specificarlo molto bene, non solo nelle condizioni di polizza che devono essere redatte in un certo modo secondo dei regolamenti ISVAP, ma anche online, visto che vendiamo prevalentemente su sito internet, con delle schede prodotto scritte in un italiano semplice, non in assicuratese come si suol dire, dove segnaliamo in grassetto se è presente o meno la copertura delle malattie preesistenti e altre coperture che possono essere oggetto di dibattito, ma anche semplicemente di equivoco con l'utente. L'utente magari non si aspetta di avere questa esclusione perché non ha familiarità con le polizze assicurative, piuttosto che è inesperto, piuttosto che non ha visto quel tipo di clausola. Per le compagnie assicurative l'unica possibilità è intanto offrire entrambi i prodotti, così accoglie e soddisfa le esigenze di più utenti. Dall'altro, essere molto chiare nella presentazione del prodotto, nel riepilogo che viene dato prima dell'acquisto, che non deve essere di tipo legale, deve essere in un italiano semplice, perché l'utente poi è un utente che non sempre per infatti forza di non cosa sono certo, ognuno fa il suo lavoro. Naturalmente, come io non ho certamente l'intenzione di conoscere bene il motore della mia macchina, quindi lascio fare all'assicuratore il suo lavoro. Poi magari, ecco, l'unica cosa che posso fare è chiarire sin dall'inizio quali sono le mie caratteristiche intanto fisiche, e quindi se ho più o meno problemi di salute pregressi. Peraltro, Dario Dalla Torre, non esiste nessun caso in assoluto per le compagnie assicurative che si possa risarcire una persona che ha comunque un problema di salute preesistente, oppure in questo caso, specificandolo molto bene dall'inizio, si può comunque sottoscrivere una polizza di protezione magari pagando un premio più alto? Sì, corretto, nel senso che a fianco delle polizze viaggi e assicurazioni generali è tra i leader anche del settore della salute o del ramo malattie, come si chiama in gergo tecnico. Nell'ambito di queste polizze, che sono polizze che invece operano anche per tutto l'anno, polizze di più lungo respiro, vengono fatti dei questionari, si accerta un po' la situazione di salute e quindi vengono anche assunte le conseguenze di malattie che possono essere accadute o iniziate prima della stipula del contratto. Come si diceva, l'importante è essere molto, molto chiari nella proposizione delle coperture assicurative, perché è giusto che il nostro cliente, che il consumatore, conosca molto bene quelli che sono i limiti su questi punti importanti, e quindi è importante avere condizioni chiare, avere quello che anche requisito che ISVAP, il nostro regolatore, ci chiede, quindi con il regolamento 35 dell'altro anno c'è stato dato un po' uno schema di note informative da proporre, in modo che sia il materiale precontrattuale che il materiale contrattuale consentano sempre a un consumatore di media o di bassa esperienza di avere consapevolezza piena di quello che ha acquistato, perché è importante avere patti chiari e magari anche delle limitazioni, purché queste siano ben condivise e ben conosciute. E amicizia lunga, ci aggiungo io. Allora, Renza Barani, Sportello SS Turista, presidente Federconsumatori Modena, il nuovo codice del turismo che è stato approvato con la legge 79 di quest'anno ha mantenuto le tutele che in questo campo, nel campo dei viaggi, erano previste appunto nel codice del consumo per i viaggiatori, con due novità: il riconoscimento del danno da vacanza, che lascerei da parte al momento, questo è un tema che mi riservo di affrontare quando torniamo tutti quanti tra agosto e settembre, il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, e la previsione anche di specifiche polizze antirischi. Cioè, che cos'è introdotto il codice del turismo? Ma sostanzialmente, come giustamente diceva lei, è una riconferma di quello che anche il codice del consumo appunto aveva in questi anni ormai acclarato, insomma. La questione si dipana soprattutto per quello che riguarda i pacchetti viaggio, cioè i famosi pacchetti tutto compreso, insomma, nei quali diciamo che il consumatore, noi vorremmo svolgere anche un ruolo appunto da questo punto di vista, deve prestare maggiore attenzione, magari con l'aiuto delle agenzie che io credo possano giocare un ruolo molto importante in quanto a informazione e divulgazione, a tutti a quei meccanismi diciamo aggiuntivi che oggi devono essere forse leggermente meglio spiegati ed esplicati, che consentono appunto alle persone che si recano in vacanza di avere quelli che possono essere maggiori accorgimenti e coperture assicurative in caso di problemi che possano incontrare, che vanno insomma da quelle che sono poi le questioni un po' generali, insomma, quindi i problemi appunto legati all'annullamento, per esempio, come credo dicevate all'inizio, del viaggio stesso, piuttosto che i problemi medico-sanitari, fino alle questioni legate allo smarrimento dei bagagli. E anche i fallimenti dell'organizzatore, perché qua negli ultimi anni ci siamo imbattuti anche in queste vicende molto poco divertenti, che hanno bruciato veramente tanti budget di molte famiglie, appunto, che invece erano destinati alla vacanza magari sognata tutto l'anno. Tra l'altro lei, dottoressa Barani, ha citato un tema piuttosto interessante, cioè il ruolo che deve avere l'agenzia viaggio anche nel documentare al meglio il proprio cliente in questo ambito. C'è però da ricordare che oggi soprattutto molti ragazzi sottoscrivono organizzano i propri viaggi utilizzando il canale online con le grandi appunto piattaforme in questo settore, Last Minute piuttosto che Expedia piuttosto che Opodo, e quindi lì ovviamente ad un certo punto della procedura che permette di organizzare il proprio viaggio c'è, se non ricordo male, anche la possibilità o meno di sottoscrivere delle polizze, di magari si ha a che fare con un interlocutore che non è fisico e forse magari interpretare e capire bene l'offerta proposta è un po' più complesso, magari poi andiamo a dare delle indicazioni anche in questo senso. Però abbiamo prima Nadia da Treviso. Nadia. Buongiorno. Buongiorno. Io avrei previsto un viaggio per novembre, anzi già prenotato. Ho peraltro dei genitori anziani ai quali potrebbe succedere improvvisamente di star male. Mm-hmm. Speriamo di no, intanto Nadia. Dov'è che li vuole, Nadia, dove li vuole portare? No, i genitori sono a casa. Io volevo capire se era assicurabile l'evenienza che stessero più male improvvisamente e quindi dovesse magari succedere. Quindi non vuole assicurarsi lei che parte a novembre, le ragazze del centrello mi hanno scritto che se ne va in Messico. Sì, sì. Da quello che ho capito. No, volevo assicurare il mio viaggio, nel senso di dire, se mi succede qualcosa per cui, non so, la mamma mi sta più male e deve tornare subito indietro, devo restare a casa perché la situazione è un po' precipitata, è assicurabile questa evenienza? Ah, certo, perché c'è comunque una situazione preesistente del suo genitore spiegata con molta chiarezza, lei è proprio su questo che si vuole proteggere, mi sembra una situazione piuttosto chiara, però bisogna capire qual è la disponibilità che hanno le compagnie di assicurazione. Perego, facciamo un preventivo a Nadia al volo, a parte che lei fa il marketing e fa un'altra cosa, non è un commerciale, però. Beh, intanto voglio rassicurare la signora Nadia, assolutamente esistono sul mercato polizze annullamento che includono le preesistenti e che possono quindi assicurare i genitori. Con Dario Dalla Torre prima lo dicevamo, insomma, esatto, che ci sono queste opportunità. E dall'altro lato quello che deve verificare è la definizione di familiare, perché spesso si parla nelle polizze annullamento di un evento occorso ovviamente all'assicurato, al compagno di viaggio e ai familiari, ma non tutte le compagnie utilizzano, non c'è una definizione condivisa o comunque legalmente condivisa di familiare, spesso ci si ferma al primo grado, chi al secondo grado di parentela, chi addirittura esteso anche a cugini. Qui abbiamo una situazione molto chiara, non vuole più tutelare il cugino di terzo grado, Nadia, ma i suoi genitori, quindi assolutamente. Voi per esempio le preesistenti le coprite eventualmente? Noi abbiamo prodotti che coprono le preesistenti, assolutamente, e i genitori come anche i parenti di secondo grado sono compresi nelle polizze annullamento. Per cui insomma Nadia, facendo una chiacchierata con voi, potrebbe ottenere un preventivo per eventualmente gestire, sperando ovviamente, Nadia, che non capiti niente, che lei si possa godere assolutamente il suo viaggio in novembre, e si può fare una discussione sicuramente con le due compagnie che abbiamo qui in studio. Volevo c'è dire anche qualcosa per di così. Più in questi casi io consiglio sempre anche ad amici un'ulteriore copertura, che è la copertura interruzione viaggio. Quindi perché non annullamento, ma potrebbe l'annullamento essere l'annullamento è prima della partenza, ovviamente. L'interruzione è quando si è già sul posto, in questo caso il Messico, e l'evento alla mamma succede mentre si è in viaggio. In quel caso ovviamente bisogna rientrare per stare accanto al familiare, c'è la possibilità di ottenere il rimborso della parte di viaggio non goduta, da un lato con la prestazione interruzione di viaggio, dall'altra abbiamo anche una serie di garanzie che vengono comunemente chiamate assistenza a parenti a casa, nel caso il familiare abbia un problema che non deve causare per forza l'interruzione del viaggio, noi offriamo l'assistenza al parente. Benissimo, insomma mi sembra tutto che funzioni in maniera ottimale e poi vi vorrei vedere veramente sul campo in una settimana, magari stando da voi per vedere davvero quante, ma non è una provocazione la mia, è un po' anche la percezione che hanno i consumatori, ma sarebbe interessante anche stabilire se poi, visto che le coperture sono così ampie, se la polizza mi costa quanto il viaggio che devo fare, quindi, oppure se i costi sono sostenibili e ragionevoli. Allora ovviamente devo essere equilibrata, equa, e per par condicio anche a Dario Dalla Torre di Assicurazioni Generali permetto, se vuole, così di dare un suggerimento di comportamento alla nostra ascoltatrice che sta partendo per il Messico e magari molti altri ascoltatori si identificano in situazioni simili. È un viaggio programmato che si svolgerà tra qualche mese, però genitori anziani, chissà cosa può succedere, come mi conviene tutelarmi se dovessi rientrare al più presto da questo viaggio e come garantire anche in questo frangente, se capitasse un'emergenza, la migliore assistenza possibile ai miei familiari che potrebbero star male. Sì, diciamo che la parte relativa al rimborso del viaggio, l'annullamento viaggio, copre anche altre persone oltre all'assicurato, sia persone che viaggiano assieme all'assicurato stesso, quindi accompagnatori, amici, il coniuge e quant'altro, che dei parenti, quali appunto il genitore, come nel caso dell'ascoltatrice, piuttosto che il suocero, il genero, la nuora. E quindi abbiamo la possibilità di proteggersi, ovviamente devono capitare determinati eventi ben chiariti in polizza relativamente a queste persone, però la malattia, una malattia grave in particolare, sicuramente uno di quegli eventi che vengono compresi. Poi relativamente invece a tematiche quali rientro anticipato, ci sono delle garanzie nell'ambito del nostro pacchetto di assistenza, del nostro pacchetto di servizi, che danno anche la possibilità di rientro in determinati casi dal viaggio, così come altre garanzie che poi vanno a completare l'ombrello, il pacchetto di coperture che vengono date, per cui sicuramente consiglio all'ascoltatrice di stipulare una polizza, in particolare vista la sua preoccupazione molto specifica di accertarsi bene che appunto la garanzia comprenda anche le cose su cui più le può avere sensibilità rispetto anche alla sua situazione personale. Pare di capire che il terreno ormai più praticato dalle persone che ci ascoltano, dai consumatori e dalla Torre, sia veramente quello della polizza molto, molto specializzata, molto personalizzata, ma come dire, vengono vendute più queste piuttosto che i pacchetti standard, forse gli standard vanno più all'interno dell'attività dei tour operator, non so, così la percezione, visto che comunque tutti di noi abbiamo dei casi assolutamente individuali. Sì, diciamo che i pacchetti tour operator ovviamente per loro natura, visto che sono abbinati a cataloghi, sono predefiniti a priori, sono molto, molto standardizzati. Potersi rivolgere invece a una compagnia con un prodotto individuale consente di personalizzare la copertura inserendo anche altre garanzie, nonché di accertarsi bene quali sono i punti su cui, come dicevo, c'è più sensibilità da parte del singolo rispetto anche alla sua situazione personale, alla sua situazione familiare, e poter anche eventualmente trattare alcune deroghe, come può sempre capitare, rispetto a situazioni in cui l'assicurato ha paura di incorrere prima del suo viaggio, per cui sicuramente c'è una personalizzazione duplice, sia legata alle opzioni predefinite, sia legata alla possibilità, come nel nostro caso, di parlare con la gente e di chiedere eventuali estensioni, deroghe e quant'altro, per cui il grado di personalizzazione poi è molto, molto elevato. Allora, volevo rassicurare l'ascoltatore che mi dice, abbiamo capito che la trasmissione è sponsorizzata, per niente affatto, sicuramente non, almeno qualche volta è capitato, lo sponsor finisce fuori dalla sigla, ma non è la situazione di questa mattina, e sicuramente se la trasmissione è sponsorizzata non finisce a salvadanaio l'ospite dello sponsor del periodo, e questo, su questo punto sono inattaccabile. Perché l'ascoltatore mi accusa di questo? Perché dice, riferendosi al caso che abbiamo sentito prima sulla compagnia che ha negoziato con il cliente e ha proposto un 50% di risarcimento per la famosa suocera che si è sentita male il giorno prima, cardiopatica forse o meno, comunque colpita al cuore da un problema, quando una compagnia fa un'offerta transattiva vuol dire che ci ha provato. Perego, Air Vitalia, che ne dice? È difficile parlarne senza sapere, senza avere le carte, capire qual è la situazione reale del caso. Non posso parlare per conto di un'altra compagnia. In passato, anche in precedenti esperienze lavorative sempre nel settore, è capitato che la compagnia arrivasse a derogare da quelle che erano le condizioni e quindi offrire in ogni caso un rimborso parziale questioni umanitarie, nel senso è vero che le compagnie sono sempre viste come un qualcosa di negativo, come un costo, però all'interno ci lavorano delle persone che ovviamente fanno il loro lavoro seguendo dei contratti e per forza di cose devono farlo, però hanno comunque un lato umano, viene spesso derogato poi dalla direzione. Non conosco il caso specifico, accetto la provocazione ma non posso rispondere. No, diciamo che anche io un pochino ero stata indotta al sospetto, proprio perché avendo accettato di transare, quindi di riconoscere un 50%, direi un pochino. Comunque, detto questo, tra l'altro ritorno all'associazione dei consumatori prima di sentire Ada da Padova, Renza, Barani, ovviamente le persone che abbiamo con noi questa mattina ci dipingono il miglior mondo possibile, poi ovviamente voi invece come associazione dei consumatori avrete tutt'altre esperienze da parte dei consumatori, però e chiaramente se l'industria esiste evidentemente qualcosa funzionerà, voglio ben sperare, e ci saranno anche molti consumatori che hanno avuto un annullamento del viaggio, che sono stati ampiamente risarciti e rimborsati appunto dalle compagnie alle quali si erano rivolti. Ma altre problematiche che risulta al vostro osservatorio e sulle quali ci possiamo confrontare con i nostri interlocutori del settore assicurativo stamattina? Altre problematiche, dice? Sì, altre problematiche appunto nel settore vacanza e assicurazioni. Allora, noi abbiamo, le casistiche che vediamo noi ovviamente rientrano, diciamo, in quelle più problematiche, altrimenti il consumatore tende a, diciamo, arrangiarsi, cioè riesce a fare da solo. Diciamo che il nostro punto di vista può essere leggermente diverso da quello detto poc'anzi da chi giustamente, insomma, fa il proprio lavoro e rappresenta le compagnie, perché noi pensiamo invece che se la compagnia arriva comunque a riconoscere un risarcimento è perché bene o male riconosce che il problema c'è stato e magari il risarcimento poteva anche essere più elevato, ci permettiamo di dire. E infatti l'ascoltatore di Latina va avanti con la sua battaglia, da quello che ho capito vuole tutto. Detto questo, altre problematiche da sollecitare? Soprattutto, diciamo, le questioni inerenti al problema bagagli, cioè quando il bagaglio viene smarrito o danneggiato dal vettore aereo. Ecco, noi diciamo in generale diamo una consiglio, questo vale sempre, lo diceva anche lei prima per i consumatori, leggere e fare domande se si può sia online che direttamente come dicevamo alle agenzie. Certo. In questo caso una delle attenzioni che vuole considerata ben bene sono i massimali che la polizza in questione prevede rispetto appunto allo smarrimento o al danneggiamento sia dei beni nostri che avevamo in valigia sia di quanto abbiamo inserito ovviamente se siamo di ritorno, certo. Insomma, perché qui appunto ci sono delle cifre già prestabilite che sono all'incirca 1200 euro insomma espressi con valori diversi, certo. Ma non sarei adesso, ma magari se il contenuto della valigia riteniamo che sia di maggior valore magari non dobbiamo accontentarci di quel massimale, pattuire qualcosa di diverso con la compagnia. Ada da Padova, buongiorno, che cosa le è successo? Buongiorno Debora, la mia è una curiosità posteriori, come si suol dire. Mi è successo parecchi anni fa che partendo per la Malpensa per andare a Cipro con un'amica, questa mia amica è stata scippata alla fermata dello shuttle per la Malpensa e questa mia amica faceva una terapia per l'ipertensione, ma era perfettamente controllata. Tranne che ovviamente lo shock di vedersi rubato tutti i soldi, tutte le carte di viaggio, tutto, è rimasta scioccata, tanto è vero che siamo andati a far denuncia e non siamo partiti né io né lei. L'assicurazione ovviamente mi ha detto è una patologia pregressa e manco per il cavolo che rimborsiamo la signora. cioè, insomma, diciamo che qualche volta l'elasticità mentale delle compagnie di assicurazione è pari a quella di un palo della luce, parliamoci chiaramente, Ada, insomma, per... sì. Sì, vabbè, adesso faccio cioè, ridere i miei interlocutori. Io sono anche medico, gli avevo anche spiegato e certificato anche la questione, dopo non abbiamo fatto i corsi, permetto. Abbiamo perso i nostri soldi e Vabbè, però non è neanche carino che ci si comporti così. Ada, capisco la frustrazione. Allora, faccio il giro contrario questa volta, vado a Trieste. Dario Dalla Torre, da Assicurazioni Generali. Che cosa diciamo ad Ada? No, beh, diciamo che gli assicuratori nell'ambito delle loro polizze pensano a molte cose. Questo è un evento, sì, non dico raro, ma insomma un po' strano, nel senso che il furto delle medicine che sono indispensabili poi sicuramente per controllare l'ipertensione, come nel caso dell'amica della signora, è possibile che nella polizza non ci fosse una previsione esplicita. Le polizze bagaglio coprono lo scippo, coprono il furto, lo smarrimento, questo danno, chiamiamolo indiretto, questa cosa spiacevole, è possibile che non fosse contenuta nelle polizze. No, anche perché voglio dire, l'assicurazione per definizione tutela dagli imprevisti, dalle situazioni straordinarie, da circostanze straordinarie. Questa è stata scippata poco prima di partire, più straordinaria di questa, no? Sicuramente era un caso, come si diceva prima, da trattare con un minimo di elasticità, visto le conseguenze che poi ha provocato anche di tipo psicologico, perché in effetti sapere di partire con o senza, meglio, della medicina che ci serve ogni giorno per tenere sotto controllo una patologia non è lo stato d'animo che può consentire a una persona di andare serenamente in viaggio. Benissimo, io devo chiudere la trasmissione perché mi mancano 15 secondi. Perego, in 10 secondi, se ce la fa lei, un messaggio ad Ada da Padova, scippata, gabbata, non ha fatto neanche il viaggio e non ha preso manco mezza lira mezzo euro, mezzo centesimo di rimborso. Intanto concordo col collega che bisogna essere un attimino più elastici e non avere la rigidità di un palo della luce. dall'altro, anche qui le condizioni, schede prodotto fatte molto bene, aiutano l'utente, perché però spesso in alcuni lo scippo prestazioni... che può prevedere, allora dovremmo tutti quanti prevedere di essere scippati prima, no, di partire, è vero, sullo però scalino ci sono dell'aereo. Prestazioni in cui viene rimborsato, vengono rimborsati i medicinali salvavita, per esempio. Quindi magari quello poteva quelli ottenerlo. Quelli che vengono chiamati acquisti di prima necessità. Non abbiamo tempo di esplorare anche questo campo. Grazie comunque per essere stati con noi, Renza Barani, Sportello SS Turista, Cristian Perego, ERV Italia. Noi abbiamo raccontato la cosa carina, che questa compagnia è nata nel 1907, assicurava i bagagli e quindi il tema del bagaglio voi lo conoscete bene, e Dario Dalla Torre, di Assicurazioni Generali. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.